24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. La Spagna sta attuando riforme strutturali importanti e forse senza precedenti. Allo stesso tempo sta perseguendo un consolidamento fiscale che è necessario e ambizioso, mentre il programma di ricapitalizzazione delle banche è sulla buona strada. Così il portavoce del commissario UE agli affari economici Olli Rehn, dopo il downgrade del rating della Spagna da parte di Standard & Poor's, su cui Bruxelles non ha voluto fare commenti nel merito né sulla tempistica. Intanto, tra crisi economica e protesta sociale, ci sono nuovi numeri che sottolineano il momento negativo della Spagna. La Spagna è il paese dell'UE con l'indice maggiore di diseguaglianza sociale, con un divario tra redditi elevati e redditi bassi che si è ulteriormente aggravato negli ultimi 5 anni causa crisi. Secondo le statistiche di Eurostat, il cosiddetto coefficiente di Gini, che misura la differenza delle entrate di un paese, si è attestato nel 2011 a 34 in una scala da 0 a 100, 100 è il peggior risultato possibile, che è il livello più alto registrato dall'inizio del rilevamento nel 95. La Spagna è superata in diseguaglianza solo dalla Lettonia con 35.2, mentre paesi come Germania o Norvegia sono rispettivamente a 29 e 22.5. L'Italia è a 31.2, ma il dato si riferisce al 2010. Ultima anche nel cosiddetto rapporto 80-20, Madrid sembra incamerare tutti gli effetti negativi della crisi, a partire dall'alto tasso di disoccupazione che in Spagna ha impoverito le entrate delle famiglie superando il 25%, con oltre 1.700.000 nuclei familiari in cui tutti i membri sono senza lavoro. Un dato drammatico sottolineato dall'ultima inchiesta sulla popolazione attiva dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gigi Donelli, Radio 24, sole 24 ore. Più di un quarto della popolazione attiva in Grecia è senza lavoro. Il tasso di disoccupazione ha superato infatti il 25% a luglio, collocandosi al 25,1% rispetto al 17,8% di un anno fa. Lo comunica l'Ufficio Nazionale di Statistica ASE, precisando che il numero dei senza lavoro ha raggiunto 1.260.000 persone rispetto ai 3,7 milioni che hanno un'occupazione. Il tasso dei senza lavoro in Grecia è più che raddoppiato dall'inizio della crisi del debito nel 2010. Una buona notizia arriva dai mercati, tutti positivi nell'ultima seduta ai listini del vecchio continente. Dopo 2 sedute di debolezza, le borse europee mettono a segno un buon rimbalzo, snobbando di fatto il downgrade di S&P alla Spagna, ormai un passo dal rating spazzatura. A spingere i listini, ieri, a seguito di un'apertura incerta, sono stati il buon esito dell'asta sui BTP, assegnati per 3,75 miliardi, e i dati macro migliori delle attese provenienti dagli USA, in particolare dal mercato del lavoro. Così a Milano il FTSE MIB ha chiuso a più 1,26%, con gli operatori che hanno acquistato soprattutto i titoli finanziari, penalizzati nei giorni scorsi. Le migliori sono state BPM, più 4%, e Monte Paschi, più 4,1%, seguite da Intesa San Paolo e Unicredit, entrambe con rialzi superiori al 3%. Recupera terreno anche Mediaset, più 2,4%, mentre tra i titoli meno brillanti spiccano l'Automatica, meno 1,3%, e Eni, meno 0,6%, su cui il numero 1 Paolo Scaroni ha sottolineato ieri le difficoltà sui contratti di fornitura gas take or pay. Rialza attorno al punto percentuale anche per Londra, Francoforte e Parigi. Ciò Condina da Radio Corp, Radio 24 e Sole 24 Ore. Macroregioni, euroregioni e gruppi di cooperazione territoriale. Le nuove forme di aggregazione regionale sono state uno dei temi portanti degli Open Days 2012 che si sono chiusi giovedì a Bruxelles. L'Italia punta molto sulla macroregione adriatico-ionica, cui aderiscono praticamente tutte le regioni della costa orientale, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, una porta d'ingresso verso i Balcani nell'ottica di una stabilizzazione dei paesi a est dell'Adriatico. I progetti interregionali coprono diverse aree, ambiente, energia, trasporti, pesca, sviluppo rurale, turismo, PMI. Il governo sostiene apertamente la macroregione, come spiega il sottosegretario agli affari esteri Marta Dassù al microfono di Sergio Nava. Con i nostri colleghi, cioè Grecia, Slovenia e Croazia, che sono i 3 promotori insieme all'Italia di questa iniziativa, il punto fondamentale è di ottenere dal Consiglio europeo di dicembre il mandato per l'avvio di questa strategia macro regionale, perché è una strategia europea, questo va capito, non coinvolge nuovi fondi, e anche questo è un punto importante, specialmente in periodi come questi, ma coinvolge le risorse della Commissione europea e coinvolge l'idea, ed è basata sull'idea, di spendere insieme i fondi europei per progetti che saranno essenzialmente di cooperazione marittima, la strategia adriatico-ionica, ma anche progetti infrastrutturali, noi siamo molto interessati al corridoio baltico-adriatico, e progetti energetici. Tra l'altro questo sarà uno dei temi della futura presidenza italiana, da quello che abbiamo capito, nel 2014 dell'Unione Europea, cioè potenziare ulteriormente strumenti regionali. Sì, è importante perché per noi naturalmente i Balcani occidentali sono una sorta di backyard, insomma un cortile vicino, un'area vicina che dobbiamo assolutamente stabilizzare. L'allargamento in questo momento andrà gradualmente, quindi la strategia di cooperazione ci permette di fare le cose insieme e anche di stabilizzare un'area molto importante. Continua l'impegno dell'Unione Europea in Africa. Le operazioni congiunte antipirateria nell'Oceano Indiano hanno garantito più sicurezza nelle tratte marittime. Invece, per affrontare il problema via terra, sono state predisposte missioni di addestramento dell'esercito somalo. Maggiore attenzione anche nel Sahel, dove dallo scoppio delle primavere arabe si sono moltiplicate cellule terroristiche che ormai controllano, come nel caso del nord del Mali, intere regioni. Il ministro della Difesa Di Paola ribadisce l'azione europea. Nell'Oceano Indiano e a largo della Somalia continua la missione antipirateria. Io la settimana prima ero a Cipro, dove c'è stata la riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea e il comandante della missione, l'inglese, l'ammiraglio inglese Pott, pur rimarcando i notevoli progressi che sono stati fatti nella lotta alla pirateria in quel bacino, ha messo in guardia i paesi europei dal non allentare la guardia, perché ancora non siamo a un quadro di piena stabilità. D'altra parte, il quadro di piena stabilità ci sarà solo quando si sarà risolto il problema in Somalia, che è il cuore del problema. In questo contesto, le missioni dell'Unione Europea, sia per la stabilizzazione della Somalia, la missione di addestramento delle forze di sicurezza somale che si svolge in Uganda, EUTMM Somalia, sia nella nuova missione EOCAP Nestor, quindi europea, di aiutare i paesi della regione, quindi i paesi costieri della regione, Seychelles, Kenya, Djibouti, a costruire delle loro capacità di gestire la sicurezza delle loro acque. Per quanto riguarda l'altra area che sta emergendo negli ultimi giorni all'attenzione del Sahel, Mali, Niger, c'è una missione europea di tipo civile, EOCAP Sahel. La Commissione europea ha dato una risposta polemica a Sergio Marchionne, ADD Fiat e presidente della CEA, la Confederazione dei Costruttori d'Auto Europei, riguardo la sua richiesta di fermare i negoziati di libero scambio in corso con i paesi produttori d'auto extraeuropei come Giappone e India. Questo signore, this gentleman, si riferisce a un punto di vista protezionista, favorevole alla chiusura del mercato, ha detto John Clancy, portavoce del commissario del commercio Karel de Gucht, rispondendo a un cronista. Marchionne aveva affermato che l'Unione europea dovrebbe smettere di negoziare accordi di libero scambio come quello già firmato con la Corea e come quelli in agenda con Giappone e India fino a quando l'industria europea dell'auto non si sarà ristrutturata risolvendo il suo problema di cronica sovracapacità. Riparte la polemica sul multilinguismo in Europa e nelle istituzioni europee. Sulla carta sono 23 le lingue ufficiali della Babele Europa, ma la Commissione UE, rifugiandosi dietro la necessità di contenere i costi di traduzione, raramente le usa tutte per le consultazioni pubbliche che dovrebbero essere alla base delle sue iniziative legislative. Molto spesso i testi sono solo in inglese, un comportamento che l'Ombudsman europeo, Nikiforos Diamandouros, ha messo sotto accusa esprimendosi sul ricorso che 3 anni fa è stato presentato da un avvocato spagnolo. In una nota, Diamandouros ha definito restrittiva, arbitraria, contraria ai principi di apertura, buona amministrazione e non discriminazione la politica della Commissione. Per l'Ombudsman, i cittadini europei non possono effettivamente esercitare il loro diritto di partecipare al processo decisionale quando i documenti delle consultazioni pubbliche non sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Preoccupazione per le pressioni politiche sulla RAI. A esprimerla è la Commissione Cultura dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nell'ultimo rapporto sulla libertà dei mezzi di informazione nei 47 Stati membri dell'organizzazione. Nel documento, che sarà sottoposto al voto dell'Assemblea plenaria di gennaio, l'Italia è inserita tra i paesi in cui viene notata con preoccupazione l'esistenza di rapporti recenti che riferiscono di pressioni politiche sul servizio pubblico. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa.